bisogno, ci ha sentato un attimo. Sì, io faccio così, io ho la scatta vera e propria, come c'è tu, PayPal, vado al tabacchino, gli do, gli dico, mi fa una ricarica PayPal, vogliono, ti chiedono la carta, giustamente, la passano nel macchinario, paghi 90 centesimi di, 90 centesimi di transazione e basta, e boh, poi arrivo direttamente, capito? Invece in quella maniera Luca, secondo me, a quanto ho capito, sta sempre ricaricando l'appo e poi a... Come io mi sappio qualcosa, farò 2 euro ogni pagamento, ma non mi frega niente, ma non sono tranquillo, ma comunque sì, la PostePay me l'hanno clonata, me l'ho fregato 100, quasi 140 euro, però quando ho fatto i pagamenti io PostePay non mi hanno mai fottuto, la roba mi è sempre arrivata, sempre. Sì, però appunto la PostePay hanno potuto anche a me più di quella cifra lì, tutto in ricariche telefoniche, ma nell'arco di un minuto. Anche a me ha fatto 4 ricariche telefoniche, poi ha fatto un acquisto, adesso non mi ricordo come ho messo là il foglio, un acquisto di oltre 70 euro mi sa, e poi non so il resto, la maggior parte erano ricariche. Lo so, ma io con PayPal mi trovo troppo bene. Certo che prima la facevo anche questo vicino a casa, adesso devo andare al tabacchino di Sant'Orso per ricaricarmela, perché non sono tutti che le fanno, capito? Simone, guarda, gli appassio per la ricarica, perché? Dimmi una cosa, sì, no, claro, vado qui a Sant'Orso, al tabacchino che c'ho vicino qua a Sant'Orso. Che rifà. Ma prima le facevo anche Giampiero, questo che c'ho ancora più vicino. Con lui? Teniamo rimborsati i soldi a te? No, sono andato alla polizia postale, ho fatto denuncia, mi ha detto guarda, noi faremo il possibile, ma non ci speri tanto di recuperare, perché questi sono introvabili. Ma la sicurezza di a me, stessa cosa. Cosa hai fatto? La posta per l'hai bloccata, sì? Sì, l'ho proprio distrutta, sono andato in posta, ho fatto tutto quanto, l'ho distrutta. No, io la sono rifatta nuova, però non ne lascio più soldi dentro, ci posso lasciare 1 euro, l'altra che mi hanno clonato è lì, cioè sono qua a casa, ma tu pensa che mi hanno fatto di nuovo pagare per farla nuova, hai capito? Questi figli di buona mamma. Sì, no, io ho fatto la PayPal, ho pagato 5 euro al tabacchino. Ti chiedo il documento d'identità, mi serve anche il codice fiscale, ci metti 5 euro di giusto per attivarla e basta. Ma a me ogni volta che e non me l'attiva me la mia, anche la tua Luca. Io pago 90 centesimi ogni volta che carico qualsiasi cifra. Inattiva, a me Simone me l'ha fatta nominativa, capito? Ho detto, c'ho il contratto, ho firmato tutto, ho avuto documento di identità, codice fiscale, tutto, ed è registrata al computer proprio, registrata come la carta della banca, è uguale a quella della banca, quella che ho io. C'è scritto PayPal e l'ho fatta lì da Simone. Sì, avevo pagato anch'io 5 euro per la transazione e poi ci avevo messo 100 euro. Ma non mi ha riferito? No, non c'ha il nominativo sopra, è possibile. Guarda, fanno quando tu vai in banca, ti fanno aspettare, poi arriva da fuori, non te la fanno subito con il nominativo. Sì, è a nome tuo, ma non c'è il nome del nome e cognome sopra. Nella PayPal che ho io non ce n'è nome e cognome, ma è registrata. Quando lui guarda il numero appare il mio nome e cognome. Ah, quello sì, anche la PostePay, la c'entra. Anche la PostePay così, tu vai alla posta, nome e cognome, documento. Ci metto 4 ore per fare una registrazione. E vabbè, comunque, adesso faccio la prova, tanto devo comprare i prezzi dei telefonini là. E vediamo un po' come va, dai, se ho problemi, ma penso di no comunque, perché se ho problemi mi faccio la PayPal, spendo 20 euro, lo so, 15 euro, 20 euro come sarebbe costa, 15 euro dentro, vado già avanti. Dove è entrato? No, io non l'ho mai fatto, io preferisco comprare segni, non mi butto di carte, tanto mi butti di esempio. Ma quando la PayPal no, c'è una circolatola, ho un casino lo stesso con tutti i bilanci di Nacco. Per recuperarli non è così facile. Ma fatto da che si muova fatta il tabacchino al riconnettore qua. No. Simone, al tabacchino che c'è via Pascoli, Simone, il tabacchino grande che c'è via Pascoli, l'ho fatta lì un po' di anni fa, tre anni fa mi pare, e ogni mi pare 5 anni la mia va rinnovata, mi arriva il messaggio al computer, da PayPal, e mi dice che la carta è in scadenza e me la rinnovano, ma la rinnovano direttamente al computer qua a casa, ti manda un'email, tu rispondi all'email e ti confermano il rinnovo, punto. Io quella lì ce l'ho perché funziona proprio come carta di credito, capito? Anziché usare quella della banca, uso sempre quella, quasi sempre. Ogni mese ci metto i soldi dentro, 200, 300 euro, quello che insomma riesco a mettere, e rimane sempre carica. Quando vado in pizzeria per dire pago con quella, se devo comprare roba, cavo, eccetera, PL, cosa per dire, pago sempre con quella lì. Come se fosse una carta di credito. È una carta di credito, vera e propria, la PayPal è una carta di credito. L'accettano da tutte le parti, anche a fare la spesa. Io vado a fare la spesa alla Conad e levo la PayPal, proprio con la PayPal. È una carta di credito, capito? E ti rilasciano la ricevuta, la passano e ti esce la ricevuta e la passano nel POS, normale come una carta di credito. Vabbè, devo avere sempre carica la carta naturalmente. E come si fa a sapere quanto è rimasto? Cosa? Devi farti conti tu, non ti scrive nulla quanto c'è a disposizione. In banca, perché no? Tu vai in banca e prelevi con quella lì, no, fai uno sportello banco, ma te prelevi con quella se ti serve liquidità, capito? C'è il codice PIN, è normale, come una carta di credito. No, questa cosa che forse sono una carta per fare acquisti così su internet e basta, non pensavo che fosse così a larga veduta. No, è una carta da sportello automatico in tutta Italia, da tutte le parti, non serve solo per pagare, ma PayPal è una carta di credito, a tutti gli effetti, registrata, c'è il codice PIN che ti arriva dopo qualche giorno a casa, non trovavo neanche subito, perlomeno a me non me l'ha dato subito, è arrivato a casa, capito? Perciò è soldi ce li hai dentro la carta, quindi quando tu la metti in uno sportello dici che il PIN e ti fa prendere i soldi, ma è una carta di credito, così è Luca la tua. Sì, è bianca, sì, sono tutte uguali, a meno che non abbiamo cambiato adesso, io ce l'ho 4 anni appena prima di te, sicché, ma sono tutte uguali. Sì, anche la mia è bianca con la scritta gialla, mi sembra. Sì, esatto. Sì, c'è una carta di credito, io tutti i soldi che mi conservo eccetera in mia casa li metto nella PayPal e li uso come carta di credito normale, capito? Normale, anche la radio l'ho preso, l'effetti 1000, l'ho pagato con quella, ma gliel'ho fatto direttamente tramite il computer perché anche lui ci aveva la PayPal e praticamente dalla mia ho caricato la sua al computer, cioè direttamente il contatto diretto al computer con il codice d'accesso, con tutto. L'ho caricato dalla mia, ho scaricato la mia, ho caricato la sua. E a me poi mi è arrivato il saldo direttamente dalla PayPal, capito? È molto interessante, è molto sicura quella già. Io non l'ho voluto mai fare, dico la verità. C'erano molte cose, me le ho perse perché si pagava solo con PayPal, oppure con il codice bancario, ovviamente con bonifico, ma non mi sono mai dato questi tipi di pagamenti. Non sarà, se va a provare dei butti giù, la candela di biliarda è una, non so come fa andare. No, già, questa è sicura, è una carta di credito vera e propria, ti ho detto, tu ti metti da parte dei soldi, no, fermo tutti così, ok, invece tenerteli in contanti nel portafoglio o a casa, cazzo, vai al tabacchino e te li metti dentro, la carta, vai al tabacchino, come che stai andando in banca a versarli, ti versi e lui ti carica la carta, tu ti carica i contanti, hai i soldi dentro la carta, io faccio sempre così, ok? Poi devi comprare una qualsiasi cosa, in contanti, vai a qualsiasi sportello, di qualsiasi banca, tu c'hai il Banco di Sardegna, vai allo sportello del Banco di Sardegna, metti la carta come il bancomat, digiti il PIN e ti prendi i soldi che ci sono dentro la carta, quelli che hai messo tu. Quanto costa la carta? 5 euro. 5 euro per farla? Esatto, ti chiede un documento d'identità, codice fiscale, tutti i dati, bim bum bam, poi ti registrano al tabacchino e ti rilasciano il foglio di quello che è praticamente tipo un contratto e ti dà la carta, ti dà proprio la carta, ti dà la carta di credito, se c'è il PIN disponibile subito te lo dà subito il PIN, altrimenti entro 24 ore ti arriva il PIN a casa, come la carta di credito. Lo facciamo girare, avanti Luca. Sì, sì, è vero, è vero. Comodissima, è comodissima. È comodissima, vedi tutte le transazioni che fai, sia se ti succede qualcosa, a me è capitato una volta, per esempio, una cazzata poi, Allora, quando tu paghi, ok, paghi verso un indirizzo di posta elettronica. Così si fa il pagamento, a meno che non sia in automatico tipo da eBay che io faccio in automatico, la pagata adesso fa tutta la transazione, se no tramite posta elettronica, lui ti dà il suo indirizzo di posta elettronica e tu ricarichi, se l'indirizzo non è giusto ti dice che c'è l'errore, sicché non puoi neanche sbagliare lì. A me è successo che io ho sbagliato di una vocale o una cosa del genere e i soldi sono dati a un altro tizio, ok? Quasi identico l'indirizzo di posta, quasi identico. La figa ha voluto che quest'altro persona aveva un conto PayPal, capito? Cosa è successo? Ho chiamato PayPal, mi hanno detto si mette in contatto con lui, se non le rispondo entro tot tempo ci richiami che risolviamo lui. Il tipo mi ha contattato e mi ha detto sì, è da un po' di anni che non la uso, ora controllo e in automatico dopo 3-4 giorni mi ha fatto il trasferimento di nuovo sulla mia carta, capito? Sì, così ho pagato la radio, le 7.000 l'ho pagata così, tramite posta elettronica, capito? C'è l'accesso, la prestazione è proprio 5 minuti, l'ho fatta, mi ricordo, c'era Antonio qua, l'ho fatta Antonio Roditti, ma la radio abbiamo bloccato la radio, abbiamo dato 200 euro, l'era fatto in 5 minuti, è subito arrivato l'ok, immediato, ok, trasmissione effettuata, a posto, e dopo un pochino mi è arrivato a me, mi avevano scaricato 200 euro dalla PayPal, mi ha mandato direttamente sulla mia posta elettronica ISRDFB@tiscale.it, mi è arrivata direttamente che avevo fatto questa transazione a nome di eccetera eccetera e dopo mi dicevano che mi avevano scaricato 200 euro. Poi quando è arrivata la radio gli ho fatto il saldo immediato, al momento che ho appoggiato la radio in terra gli ho fatto il saldo immediato, subito, immediatamente. Tu immaginati, io Gianni, che mia figlia usa la mia, no? Quando va fuori, capito? Si mette lo stipendio dentro e quando va fuori usa quella lì e paga tutto, adesso a Pasquetta sono fuori, si porta quella lì, capito? Non se la porta quella alla banca, assolutamente, si porta quella, ci sono i soldi dentro e paga tutto con quello lì, albergo, tutto quello che fa lì paga tutto con quella lì. e non vengono a smarrire qua. Come? Non vengono a smarrire e recuperarmi. E glielo credo. No, che va bene. Una cassa di cristo, meno di 50.000 e 10 bambini. Cose, mamma mia, c'è un po' che di carta e cartina dentro quel portapesce. Ciao, no, passa un po' che sei un po' papapapapà. Papapà. Non sento male, che ti ha attenuato. È troppo forte, abbassa già. Ma adesso l'ho abbassato, meglio va. Però lo sento bene, là. Non più sta passando. Voi siete troppo vicini e siamo sempre allo stesso problema. Sempre stacca il processore già, invece di toccare il microfono. Stacca il processore. Perché sai non è cedito? Non è cedito. Se non che era una bomba, bellissima modulazione. Abbassa la potenza un pochino, non lo so. È sempre lo stesso discorso. Però è fortissimo, bellissima modulazione, un bel forte. Mi sa che per marciare a fare con questo microfono, mamma mia. Qua ce lo metto al minimo, quindi almeno, sono tutti contenti. Già, io cioè, faccio fatica a capirti, eh. Ah, ma qua è così, già. Se saturo, capito, non si capisce. Non è saturo, non è saturo, cioè, però a me non arriva saturo, è talmente forte. Arriva tutto un po' cioè sembra troppo spinto di watt, ma basta i watt già, come stai dicendo Claudio. Ma cosa, i watt sono 10 watt che sto uscendo, non sono certi watt, 10 watt a picchi di 15-20 al massimo. Guarda adesso come va. Adesso va bene. Magari è basso per Claudio. Claudio, come va adesso? Per me va benissimo alla grande, Gianni, io ti ascolto magnificamente bene, puoi abbassare quello che vuoi, per me la modulazione. A me l'unica cosa che non mi piaceva è che non avevi tonalità alta. Adesso anche se tu lo abbassi la tonalità alta rimane, quindi per me va sempre bene perché c'è potenza, la voce alta è bella, forte, capito? Non mi cambia niente a me già. Non mi cambia niente. Io sapete cosa sto usando col 430? Sentite che radio, eh? Sto usando la M808 della Donis, però con lettore I come Kenwood. Vabbè, va benissimo. Bella, Luca, bella. Sono attimino, chiamano un messaggio, ripeti? Ho detto se ti piace questa modulazione con microfono ICOM sul Kenwood. La tua? E allora di Marco Giovannino, la mia è questa, modulazione, ti piace? Sì, bella, cioè, non ho trovato niente, vuol dire che va bene, spinta, bella. E questa è una M808, M808 della Donis, con connettore ICOM e Kenwood, anche da te, Peter, va bene? Una bomba, eh! Cazzo, mi sembra una bomba! Stavo facendo le prove, potevo farlo a Massimiliano. Massimiliano, non ti ho fatto sentire la Donis con il 430, infatti l'hai provato solo su un 140. Cazzo, gli ho attaccato, non me l'ha fatto più attaccare. Ma poi tu non esci male, Ica! Sarebbe come se uscissi male. Non ce ne vale di prendere un baracchino, un microfono normale, girare la capsula al contrario, allora si cresce male. Oh, ma è una cosa allucinante, ho già provato l'MC50, l'MC50 che non è preamplificato, sul 430 non c'è una nuda, sempre in voci. Ho usato addirittura quello della Iaesu, l'MD1 con l'adattatore Iaesu Kenwood Amatese Gosa, sempre forte, l'SM20, questo Adonis, la V908 come quello che c'ha Gianni, non li va vedendo, toccatevilo a uno. Cazzo, una cosa impressionante questa radio, veramente una cosa da paura, cazzo. Signori belli, dai che mi hanno chiamato, cazzo 9 e un quarto. eravamo scesi in Attanotti, cazzo, poi dice invece eravamo scendi la uccellino, no, che cazzo, boh, è a capo a terra. Oh, io vado a mangiare, dai, se ci scende ci sentiamo dopo. Mi sa che tu pensi di andare a mangiare qua. Comunque se mi riuscire a mare, fatti piacere la capsula della Lucca, poi tra buone rinvesi mi sembra che ci vai. Neanche basta. No, però ci devo fare io, mi devo parlare, non è quei baracchini che c'è già nei capri due. Ma tu non c'è la storia. Una volta ho scagliato il microfono per cambiarmi il calmo e mi ha pensato la capsula a rovescio, tutti mi dicevano che ci può male, anche lui, mi dicevano che mi guardi già, dopo che si scende male, portalo qua a porta, lo guarda e poi siamo andati a casa, l'ho aperto e c'era la capsula a rovescio. Cazzo, non già volevo niente, cazzo, anche Luca sta perdendo colpi, per carità. No, dopo mi adesso mangio, se ci siete dopo voglio fare una prova col microfono normale. E vi dimostro che non è come state dicendo voi, capito? Perché io mi ricordo con l'MC43, che non so manco dov'è del 430, forse dentro l'armadio, l'MC43, il microfono normale da palmo del 430, usciva veramente molto molto bene. Poi lo proviamo, vabbè, adesso vado a mangiare. Ci sentiamo dopo. Baci e abbracci a tutti. E io però voglio sottolineare una cosa, che l'amore l'ha fatto benissimo, è stata solo una svista e non voglio ingiuriare nessuno, per carità. Vabbè Clara, buona carica, anche io vado a caricare, se il convento passa qualcosa carichiamo anche noi, là. Mi sa che c'è di salata russa, boh, che buona. Anche io! A dopo, ciao Flipper, ciao Luca, ciao Gianni, anche Antonio Crobbe, se ancora mi ascolta, a dopo. Ehi, ciao, buona carica, a dopo, già sono qua. E ciao anche a Gianni, buona carica anche a te. Avanti Luca. Perché ti sei troppo occupato, però Flipper? A me, forse è stata toccata qualcosa qua. Aspetta che il microfono è sempre a sì. Aspetta qua, guarda se va meglio. Il microfono pimpante ci vuole per te. No, la domanda va bene Luca. Adesso l'ha abbassata a 4, meglio va. Ah, più bassa, no, va bene poco fa, però no, quella andava bene, però sono stato vicino a Gianni. Infatti l'ho avvicinata poco fa. Ma no, io vado a mangiare, vi saluto e riaccendo dopo, se ci siete, se mi dite che ci siete vengo a riaccendere, sono qualche visore. Mi devo guardare quel film di accendere di Steven Seagal, ma ancora non è iniziato. Guarda, sono qua. Vabbè, a dopo. Ciao. Però niente. Luca, mi sono preso il mouse azzurro, con la luce azzurra, è bello, piccolino, ragazzi. Il mouse. Mouse. Ah, mouse. Non che stoppo. Positivo. Ho preso con le luci blu. Cini? No, l'ho preso da media ora. Ma come sempre comprare lì, tutto uno vuole risparmiare. I cinesi li trovi, si risparmi, poi alla fine non è sempre, cioè, non è un, diciamo, un prodotto buono, perché è stato fatto così, tanto per farlo. Vabbè, io sono qua comunque, dai, andate a cenare, io sono qua. Mamma diceva, chi meno spende, più spende. Anche. Ma ti va butti, si fa, se ti cambi la nuova, se stai sempre di più. Alla fine conviene spendere e hai. Cioè è inutile che uno va a spendere che pure alla fine i risultati sono quelli. Purtroppo è così. Vabbè. Cioè, io sicuramente la posso toccare un cassetto qua. Questi non quelli messi, sono la parte giusta. Cose oggi, cose domani, brava. Dai, sentiamo dopo. Ehi, vai pure, vai, io rimango qui, vado a mandigare. Ciao, ciao. Ciao. Sì. cardinale. Buona Giovane, sta per mettere un po' di mano. Mi compro, però fa sera. Mi taglia erba. Tu ci mette qualcosa, guarda, taglio. E cattura da tutti. Se capita. Sta arrangia via. Sì, io vabbè, il dottor Scudiato ce l'ho perché era di mio padre, che... però vedi, con questo amministratore di condomini che quando c'ha dei lavori del genere, sa Dio che ti li attrezzi, se li chiama. Buono, buono. Allora sta cercando un computer, lui. Chi? Manuele. Io lo usassi, lo vuoi? Un portatile portatile nuovo, nuovo di pacca, nuovo. Ho pagato lui il tipo 240 mi sa. E lo sta dando 160-140, se non mi ricordo. No, un fisso sta cercando. Ah, qui sono mio. Ma non è subito punto lì, mi sono la quadrura di fissi. Torretta lui se non so, capito. Il resto ce l'ho. Però vuole, sta dando un navigatore perché non ha soldi, capito? Non so, va a te. Io ce l'ho, ma lo tengo di scorta, capito? Non sa mai. Ne ho uno sempre in più, perché ne ho uno qua, ne ho uno a casa di mia suocera, e uno lo tengo di scorta, capito? Pronta a piazzare sempre. In caso che abbia problemi uno c'è subito sostituto. Ora io ne ho uno un portatile a casa, no? Che non vale altro la mia amica. Però questo PC l'ho formattato, un po' si è rallentato. Strano, boh, non è lento, prima non era russi. E l'avevo messo da parte. Poi ho deciso, ho detto, beh, adesso mi do la controllatina. Cosa ho fatto? Nel moto, ho messo la... il dissipatore, ho smontato e poi anche il processore e c'era un 1730, boh, vabbè, ne ho messo uno più grande perché ho messo la pasta, l'ho pulito bene, prima la pagina la apriva 20 secondi, 25, anche di più, adesso la apre in 3 secondi ed era proprio il processore. Il processore è tutto, il processore è tutto, poi a incasinarlo naturalmente si sa, col tempo si incasina, anche con tutte le veloce, se non gli fa le sue pulizie, tutte le cose, manutenzione, si rallenta anche quello purtroppo, però il processore è tutto, infatti i computer costano perché montano dei processori come si deve. Infatti l'ho sostituito, io il mio l'avevo recuperato da così vecchi. La PC, magari mai, c'era la PC, c'era il monitor rotto, quell'altro c'aveva altro problema, e quello lì, siamo pensati recuperati così. E infatti sul suo originale, l'ho conservato, funziona lo stesso, però è più lento, buon rosso. Allora, gli ho fatto due lavori, uno, prima da 3 giga di RAM, e gliel'ho portato a 2, e poi devo essere questo processore più grande. E ti posso dire che è una bomba. Una bomba di più? Sì. Chi è che è? Ehi, ma è il suo film, no, come è il suo film? Non è il 4.